Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 14 maggio, buongiorno di nuovo a tutte e tutte e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio. Do il buongiorno anche alla mia collega di redazione da Parma, Antonella Cortese. Buongiorno a te. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Allora, oggi sempre come redattore sociale parliamo della doppia pena dei disabili in carcere. Leggo questa notizia da retisociali.it e dove c'è un'intervista molto interessante, ieri anche ve lo citavo, al dottor Sandro Libianchi, che è il presidente per l'appunto del Coordinamento Nazionale per la Salute Carceri Italiane, Conosci. Perché ci sono più di 600 disabili in carcere che non ricevono le cure e gli ausili necessari, sono dati allarmanti. La normativa vigente prevede che la disabilità, come ogni grave motivo di salute, possa essere motivo di scarcerazione oppure di misura alternativa, ma non è sempre così ed è su questo aspetto che si concentra questa intervista al dottor Libianchi. Caterina, io direi che il problema dell'assistenza si aggiunge a quello della carcerazione, quindi diciamo che i disabili scontano una doppia pena alla fine. Sì, in questa settimana abbiamo parlato di doppia pena in riferimento anche alla lettera dei detenuti di Torino e di Oristano che hanno scritto la doppia pena per la pandemia anche, ma ci sono anche questi detenuti che scontano la doppia pena perché essendo disabili, oltre alla pena che subiscono magari per il reato, c'è anche la condizione di disabilità che li mette in una situazione di maggiore isolamento e situazione di bisogno, di aiuto. Dice il dottor Libianchi, il detenuto disabile è del tutto invisibile e la sua condizione non gli permette di avere le stesse opportunità del detenuto non disabile. Non può fare quasi niente e in particolare, tra le altre cose, non può nemmeno lavorare e sappiamo quanto il lavoro sia importante all'interno del carcere. A questo punto ti voglio chiedere quali misure alternative restano, cioè come funziona l'assistenza in carcere? Chi sono oggi quelli che definiamo i caregiver e che un tempo erano definiti piantoni, che poi di fatto sono detenuti in supporto? Succede che quando i detenuti disabili, abbiamo visto che i numeri sono considerevoli, hanno la fortuna di avere qualcuno che li assista, questo qualcuno sono degli altri detenuti, ovviamente non disabili, abili, che la direzione decide di mettere a disposizione di ogni persona e vengono chiamati piantone perché sono lì in appoggio, in aiuto alla persona disabile. Viene scelto con criteri però non sanitari questa persona e di rado è formata per fornire assistenza. C'è da dire che la normativa vigente sulla disabilità in carcere, che è la legge 26 luglio del 1975, l'ordinamento penitenziario, prevede che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisico-psicofisiche debbano essere assegnati a istituti o sezioni speciali, ma sono soltanto 7 in Italia, quindi questo è allarmante. Senti, ma cosa succede invece negli altri 186 istituti italiani? Succede che purtroppo la maggior parte dei detenuti disabili hanno difetti di deambulazione e si muovono con difficoltà all'interno della sezione, hanno difficoltà all'accesso di aree verdi e oltretutto c'è un altro problema molto rilevante che è quello che riguarda i permessi premio. Le misure alternative per questi detenuti sono poche rispetto a quante ne avrebbero bisogno. In genere questi detenuti statisticamente sono molto poveri e non hanno un alloggio fisso di riferimento o una residenza anagrafica e questo fa sì che scontino anche la loro malattia oltre che la pena all'interno dell'istituto. Ed è una cosa su cui la Corte europea però non ha chiuso gli occhi, anche perché si è più volte pronunciata contro l'Italia per aver violato il diritto del condannato a non essere sottoposto ai trattamenti giusti, quindi subisce trattamenti inumani e degradanti. Dunque, questo voglio dire, la condizione dei detenuti riguarda veramente tutti noi, come welfare generale, sociale. Assolutamente, ci riguarda direttamente, proprio come società civile. Senti Caterina, oggi è venerdì, vogliamo salutare qualcuno? Abbiamo ricevuto un po' di lettere, quindi vogliamo salutare dalla Dozza un detenuto, un ragazzo che ci ha scritto e una bella notizia, ha preso 30 nell'esame di diritto costituzionale e ha preso questo bellissimo voto, gli vogliamo fare gli auguri anche grazie alle rubriche. Oggi parliamo di a cura di altro diritto e diritti al punto. Quindi lo ringraziamo per averci riportato questa bella notizia e ringraziamo anche chi si occupa di queste rubriche, perché allora vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono. E poi c'è anche qualcun altro, un altro detenuto che ci ha scritto e non solo ci ha scritto, lui scrive, è uno scrittore, anche un antropologo, e ha scritto il libro Il Gaucito Gil da Bandito a Santo con edizioni Book Sprint, ed è una storia ambientata in Argentina dove si rende un culto devozionale a questo santo, considerato un santo che però non è riconosciuto poi dalla Chiesa, che si chiama Gaucito Gil, un ribelle che sfidò le autorità per amore. E questo scrittore, studioso che ha scritto questa bella storia, che ci ha raccontato questa bella storia, è invogliato di approfondire ancora sul tema, insomma, il filo rosso della storia del Gaucito, sta cercando di scrivere un altro libro, anzi è ispirato alla tesi di laurea che ha proprio sostenuto anche mentre è ancora in carcere, Il culto a Sala Muerte, analisi di miti, leggende e pratiche cultuali nel mondo latinoamericano. E quindi questo tratto dalla sua tesi magistrale in antropologia storica. E quindi facciamo i complimenti a questa persona che veramente ci ricorda quanto il carcere sia anche il luogo dove si può anche studiare, si può fare molto. E speriamo con questo appello che faccio che magari qualche editore gli venga la voglia di approfondire, contattare Duradio e chiederci di diffondere questo bel libro. Ma ora lanciamo un brano musicale. All along the watchtower, lungo la torre di guardia, sempre del nostro Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo sempre con te adesso, Antonello, nella seconda parte del nostro programma, perché oggi ci parli di una leggenda africana. Sì, voi lo sapete che il venerdì ormai è quasi consuetudine parlare di un animale. E oggi, prima di parlare di questo animale, vi leggo questa leggenda africana che ho letto su Africa Rivista. Comincio. Quando Dio creò gli animali, collocò l'ippopotamo sulla terraferma. Ma l'ippopotamo amava l'acqua e chiese al creatore di poter vivere nel suo ambiente preferito. Il creatore tuttavia rifiutò. L'ippopotamo insistette così a lungo che il creatore, esasperato, gli disse: "Non posso farti vivere nell'acqua, sei una bestia enorme ed in pochi giorni divoreresti tutti i pesci dei fiumi e dei laghi". Allora l'ippopotamo promise che se gli fosse stato concesso di vivere nell'acqua, si sarebbe nutrito soltanto di erba. E per dimostrare di tener fede a questa promessa, avrebbe spalancato le fauci ogni qualvolta il creatore avesse desiderato, per mostrargli che in bocca non c'era alcun pesce. Così l'ippopotamo convinse il creatore ed oggi vive in tutti i fiumi e i laghi dell'Africa. Che bello, io guarda, mi sono ispirata da questo racconto che hai fatto, perché l'ippopotamo è quindi un animale anfibio e oltretutto sono ispirata perché ho dei nipotini e dovevi sapere che su tutte le marche Pampers era figurato l'ippopotamo e allora ti chiedo di saperne un po', qualcosa di più. Eh sì, diciamo che in un certo senso è un animale anfibio, perché questo pachiderma che può pesare fino a 4 tonnellate, quindi si colloca tra i mammiferi terrestri più massicci, insieme poi all'elefante e al rinoceronte, ha un piccolo problema. non sa nuotare. Infatti, se ci fate caso, abitano in genere in zone meno profonde, di fiumi, pozze, laghi, insomma, zone d'acqua, dove il livello dell'acqua però effettivamente è piuttosto basso e consente loro di rimanere immersi fino a un certo punto, perché possono in questo modo venire in superficie piuttosto in fretta per respirare, semplicemente alzandosi sulle quattro zampe, insomma. Tuttavia, però, sono presenti anche in zone in cui l'acqua è un po' più profonda. E però, non sapendo nuotare, l'unico mezzo di locomozione a disposizione dell'ippopotamo è il galoppare sul fondo, ritornando in superficie proprio per respirare. E per farlo spiccano un vero e proprio balzo, saltano in alto praticamente, spingendosi con le zampe dal fondale alla superficie. Proprio per questa loro caratteristica, di galoppatori dei fondali, nell'antica Grecia li chiamavano cavallo di fiume, cioè hippos cavallo e potamos fiume. Come vi abbiamo detto prima nella leggenda, l'ippopotamo è un animale erbivoro, cioè si nutre soprattutto di erba fresca di diverse specie e si alimenta soprattutto al crepuscolo o durante le ore notturne. Quando la temperatura è più mite, esce dall'acqua e va a scorrazzare nelle praterie erbose. E ecco, può anche percorrere molti chilometri alla ricerca del cibo. Ma Antonella, spicca questo balzo, quindi ci facciamo sempre un immaginario un po' paccioso di questo animale rappresentato in varie raffigurazioni, bellissimo, ma non è proprio così, no? No, no, veramente non lo è affatto, perché l'ippopotamo, se è un po' cicciottello, c'ha questo visino simpatico, ma in realtà è uno degli animali che non ha predatori naturali, o comunque gli unici predatori possono essere i coccodrilli e i leoni, che però lo attaccano molto raramente. Poi considera che ha delle zanne enormi, una muscolatura mascellare potentissima. E addirittura la sua bocca può spalancarsi oltre i 150 gradi. Purtroppo però è anche un animale minacciato, come quelli che abbiamo citato nelle precedenti puntate, e soprattutto perché l'habitat si sta riducendo notevolmente. E poi c'è anche il commercio illegale della sua carne e anche dei denti, che come le zanne degli elefanti vengono utilizzati proprio per l'avorio, realizzare souvenir, insomma. Capito, è molto interessante. Magari proponiamo ai nostri ascoltatori di chiederci quale altro animale poter approfondire insieme. E ti chiedo di lanciare l'ultimo brano musicale di oggi. Sì, io torno a una cantante che mi piace moltissimo e che si chiama Sona Gyobartè, in questo caso suona con la sua band, e il brano che lanciamo oggi è Barnaya. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, sempre con il nostro ospite della seconda parte della mattinata. Siamo con Maria Inglese. Buongiorno Maria e bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi la nostra chiacchierata vertirà a partire da un libro, perché Il carcere è a cura di Elisa Mauri. E questo libro, perché il carcere è costruire un immaginario che sappia farne a meno, Edizioni Sensibili alle Foglie 2021, e appunto firma di Elisa Mauri, psicologa, un libro pieno di perché sul carcere. E allo scopo poi di indurci in qualche modo a sospendere il nostro giudizio su chi è in carcere, in qualche modo come fece lo stesso Basaglia in proposito ai manicomializzati, e a guardare le persone e non i modelli e le teorie sul carcere. Ma io il primo perché, Maria, lo voglio chiedere a te, come mai non riusciamo a fare a meno del carcere come dispositivo e simbologia in qualche modo? Diciamo che il carcere fa parte di quei dispositivi dei quali non riusciamo a fare a meno, cioè è necessario, ma nello stesso tempo è anche un po' fallimentare come dispositivo e abbiamo tanti dati che ce lo dimostrano. Diciamo che si parte da un dato di fatto, è sempre stato così e non si pensa che possa essere in un altro modo, però in realtà questo non è vero perché noi sappiamo che tutto il dispositivo delle punizioni è cambiato nei secoli. Il carcere è un'istituzione molto recente, ha 300 anni di vita, mentre prima esistevano le pene corporali, i supplizi. Michel Foucault nel suo libro Sorvegliare e punire lo spiega molto bene, e lo stesso anche il libro di Goffman, Asylum, che parla delle istituzioni totali, dei quali appunto Elisa nel libro parla molto dettagliatamente. Però appunto ci viene da pensare che sia sempre stato così, che non si possa fare altro. In realtà noi sappiamo che c'è dell'altro, c'è la possibilità di immaginare anche altre risposte. E allora io qui mi rifaccio un altro libro perché ho trovato delle risposte molto interessanti. Su questo libro che vi faccio vedere, si Utopie di chiama bambini, il Sì. mondo rifatto nell'infanzia. Esatto, questo è un libro che è il frutto di 10 anni di laboratori nelle scuole con i bambini tra i 5 e gli 11 anni, nei quali gli veniva richiesto di rifare il mondo, di immaginarsi una isola utopica nella quale loro potessero mettere le loro aspirazioni, i loro desideri. Quindi loro partono esattamente da bisogni primari, la casa, il cibo, le amicizie, le regole. Ecco, e questo già mi ha un po' attivato, e nella loro isola in realtà c'è anche un luogo dove vanno le persone che non rispettano le regole. Però è molto interessante e ti cito solamente due frasi di due bambini. Vai. Un bambino, Federico, 10 anni, dice: "Ricordiamoci quanto è stata catastrofica l'idea per un mondo migliore. Non dovremmo scegliere cose ovvie, ma pensare quello che nessuno ha mai pensato." Che è esattamente quello che un po' anche Elisa Mauri nel suo testo ci invita a fare, cioè a inventarci delle altre soluzioni. Visto che i bambini parlano di regole, loro dicono: qual è la regola primaria, la regola che vale sopra tutte le altre? La regola di non isolare gli altri. Questa è la conclusione di questi bambini. E poi cosa dicono in merito alla prigione? Che nel loro immaginario esiste. Esiste la prigione sull'isola di Utopia, però è una prigione dove ci sono dei maestri, maestri che ti spiegano come fare per cambiare, che ti fanno vedere con l'esempio come si può cambiare e ti fanno fare esercizi di immedesimazione. Ecco, io ho trovato che questa apertura un po' del mondo delle utopie dei bambini possa essere anche un po' la nostra apertura, cioè cominciare a pensare delle istituzioni che non puniscono semplicemente, ma che fanno apprendere, accompagnano il cambiamento, la trasformazione, ad esempio attraverso queste regole molto semplici dei bambini di non isolare gli altri e di permettere agli altri di apprendere dei comportamenti nuovi. Voglio lanciare una cosa molto molto semplice, ma in realtà i concetti dei bambini non sono mai semplici, perché loro partono da dati concreti, ma riescono poi a costruire delle soluzioni alternative, il loro mondo appunto utopico. E allora ti chiedo anche di lanciare una canzone. Allora, per oggi ho pensato a una canzone di Patti Smith che In si this chiama land, Amerigo. we Ascoltiamola. placed baptismal fonts, and in infinite number we're baptized. And they called us Karabi, which means men of great wisdom. Salvation of souls, but wisdom we had not, for these people had neither king nor lord, and bow to no one, for they have lived in their own liberty. Where are you going, and are you going anywhere? Going in circles, going in circles. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, sulle note di Patti Smith Amerigo. Siamo sempre con Maria Inglese, stiamo parlando del dispositivo carcere. Perché il carcere? E allora io chiedo a te, Maria, pensi che tra le soluzioni di questa ideologia, reato, pena, punizione, per chi è in carcere, possa essere affidata anche alla società civile una delle soluzioni? Cioè, che compito abbiamo noi come cittadini esterni, chiaramente in questo momento, per cambiare un modo di pensare a queste strutture, come appunto le carceri, per le persone che le abitano? E perché tutto questo in qualche modo ci deve interessare come società? Allora, penso che prima di tutto sia importante presentificarlo il carcere, perché essendo un luogo separato e isolato e come istituzione totale vive proprio nell'isolamento, nella separazione dal contesto, dal territorio, dalla comunità, penso che il nostro compito sia soprattutto quello di riuscire a presentificarlo. Chi può ci entra e chi ci entra non perché costretto, come le persone ristrette, ma per scelta, per lavoro, per volontariato, eccetera. Secondo me deve avere anche questa capacità di raccontare quello che succede nel carcere, soprattutto presentificare le storie delle persone, perché è solo attraverso le storie che secondo me noi riusciamo a compiere quell'atto anche di medesimazione e di comprensione rispetto all'altro. Quindi io immagino appunto, un po' sempre citando Basaglia, perché Basaglia appunto ha inventato un nuovo modo di prendersi cura della malattia mentale, inventando appunto i servizi sul territorio, quindi distruggendo l'immaginario che era invece fatto dell'ospedale psichiatrico, del manicomio. E lui diceva una frase che mi piace molto, che è quella di entrare fuori, uscire dentro. Questo secondo me dà proprio il senso di questo duplice movimento tra l'esterno e l'interno, cioè come gli altri, noi fuori, dobbiamo in un certo senso entrare e chi è dentro deve in un certo senso avere la possibilità di uscire almeno con le storie, con le narrazioni. Quindi secondo me tutti quegli interventi che sono legati ad esempio alla interazione tra il dentro e il fuori, penso alla scuola, penso al lavoro, ma penso anche al volontariato, ai laboratori di scrittura, ai laboratori di incontro, no? Ivo Lizzola, che è stato mio grande maestro e anche maestro di Elisa Mauri, appunto ha accompagnato i suoi studenti del suo corso di laurea a incontrare i detenuti in carcere, le persone ristrette. Ecco, questo tipo di relazione tra dentro e fuori secondo me è molto generativo. E poi secondo me dobbiamo porci una domanda soprattutto sul fuori, se siamo disposti a cambiare la nostra idea di pena, se siamo disposti a cambiare la nostra idea di giustizia. E questo interroga soprattutto le persone fuori e chi ha a cuore un po', sia le persone che hanno appunto compiuto un reato e sono all'interno, ma sia anche le nostre istituzioni, perché altrimenti se lasciamo le istituzioni da sole, il carcere è un'istituzione forte, le lasciamo a soffrire con le loro contraddizioni, con le loro, io direi anche questa incapacità di accompagnare la vera trasformazione. La metamorfosi è umana. Maria, provocatoriamente una domanda. Cosa diresti a qualcuno che ci sta ascoltando e magari pensa, ma perché io mi devo interessare di carcere? Magari sono dentro, hanno fatto qualcosa, basta, non gettiamo più lo sguardo, gettiamo via la chiave, fra virgolette, quello che si dice spesso. Cosa diresti tu, dopo tutti i tuoi anni di esperienza, il tuo lavoro, perché? Perché penso che tutte le volte che noi creiamo dei luoghi separati dalla comunità e dalla vita, noi stiamo creando appunto istituzioni totali. E questo non è solo un luogo fisico, come dico sempre, l'istituzione totale prima di tutto dentro la mente delle persone. E allora il dispositivo della separatezza, che era il manicomio, che oggi è il carcere, ma che sono anche le RSA, che sono anche altri luoghi, rischia di diventare quello che Foucault diceva la società carceraria, nella quale esiste il professore giudice, esiste il medico giudice, esiste anche l'operatore sanitario giudice, l'educatore giudice. Noi dobbiamo togliere quella parola perché abbiamo fiducia nelle istituzioni, quali appunto i nostri tribunali, i nostri luoghi dove viene praticata la giustizia, ma non dobbiamo essere giudici ulteriori, cioè aggiungere uno sguardo giudicante sulle persone che già l'hanno ricevuto il loro giudizio. E quindi io penso che sia proprio questo, cercare di pensare alle nostre istituzioni come parte di noi, quindi non lasciarle da sole, e quindi non lasciare da sole né le persone ristrette, neanche chi ci lavora. Grazie Maria, quindi questo forse è il vero significato di uscire dentro, cioè esatto. Fare in modo che tutto abbia porosità, tutto respiri nella nostra società e nel nostro modo di pensarla, ecco. Esatto. Quindi lanciamo una canzone, Marco Mengoni, Credo negli esseri umani, oggi ci sta veramente questo pezzo. Grazie, grazie Maria. Alla prossima, ciao. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te, ma che splendore che sei. E terminiamo la nostra settimana dei buongiorno di Liberi Dentro Edu Radio con le parole di Maria Inglese, psichiatra a Parma, e ci vediamo tra poco con la rubrica Oggi parliamo di ginnastica da camera e a seguire spiritualità islamica e cultura araba. Mentre sabato, sempre le nostre rubriche con la Cappellania della Dozza, con il Vangelo ti è vicino, il Teatro del Fratello e la rubrica Parliamo di Buddismo. Anche domenica gli appuntamenti continuano con il CPA di Bologna, con School on Air e a seguire il Teatro dell'Argine. Vi ricordo di seguire le nostre puntate sempre su Teletricolore e anche Lepida TV. Noi ci rivediamo con i Buongiorno di Edu Radio lunedì prossimo, sempre alle ore 10.30 su Teletricolore e 13 su Lepida TV e alle 9 su Radio Città Fujiko. E ringrazio Antonella Cortese per essere stata con me tutta la settimana e Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate, tutti i nostri ospiti della settimana, ma soprattutto voi ascoltatori che ci seguite, ci ascoltate, ci scrivete, continuate a farlo perché per noi è tutto quello che possiamo ricevere di bello. Grazie e buona giornata a tutti. Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.